3. Il formato dell'arte. Buongiorno, buongiorno a tutti da Elena Del Drago, benvenuti all'ascolto di A3 che oggi parte alla ricerca del mito della sirena, della donna metà pesce che così tanta importanza ha avuto nella storia dell'arte, dalla classicità fino ai nostri giorni, una metafora fondamentale. E noi cominciamo questo viaggio a ritroso perché l'occasione è rappresentata da una mostra più che contemporanea, allo stato delle sirene, appunto l'ultima incarnazione di questo mito, una mostra che si svolge in 3 luoghi differenti nello stesso momento: a Roma, alla Nomast Foundation fino al 14 maggio, a Parigi invece alla Cadist Art Foundation e poi a Londra alla David Roberts Art Foundation. Quindi 3 fondazioni, e le fondazioni davvero stanno vivendo un momento di importanza nel sistema dell'arte, finanziate da privati per lo più e da, in parte soltanto da fondi pubblici. Stanno davvero facendo molta ricerca, ne è esempio questa mostra, una mostra ideata da un artista, Etienne Chambaud, insieme a uno storico dell'arte, un critico d'arte, Vincent Normand, a spiegare già la complessità del discorso. Ed è una mostra di cui vi potete fare subito un'idea volendo, collegandovi al nostro sito www.a3.rai.it oppure direttamente alla nostra pagina di Facebook A3 Radio, sul motore di ricerca del sito, dove troverete un album fotografico dedicato interamente alla mostra, e quindi capirete, sentirete subito come è una mostra concepita attorno all'assenza, attorno al fraintendimento. Ci sono dei piedistalli vuoti, occupati soltanto in parte da alcune figure, come se ci si trovasse in un romanzo. C'è lo scrittore che scrive su una macchina da scrivere le sue impressioni, la cronistoria proprio della mostra, e produce quindi un romanzo della mostra. C'è un'attrice che ne racconta alcune parti, ci sono dei documenti che raccontano cosa invece avviene dietro le quinte della mostra, ci sono delle sculture minimaliste. Potete farvi un'idea. Intanto noi andiamo a parlare con Etienne Chambaud, che è l'artista che ha inventato insieme a Vincent Normand l'ultimo stato delle sirene. Etienne Chambaud, la vostra mostra è una collaborazione, nasce da una collaborazione tra un artista e un critico d'arte in cui i ruoli sono molto poco definiti. Ecco, qual è stato il processo per arrivare allo stato delle sirene? Vincent is an art critic. Vincent Normand è un critico d'arte oltre che un caro amico, e parlando abbiamo realizzato che avevamo molte cose in comune. Così abbiamo deciso di trovare una cornice che accogliesse la nostra conversazione, che la trasformasse in una mostra. Nel tempo il progetto è evoluto molto, abbiamo scritto diversi testi sulla mostra che poi sono diventati parte integrante della mostra stessa, come letture degli attori. Ecco, è una mostra che riflette sull'ultimo stadio, sull'ultimo momento di un mito lontanissimo. Quanto vi ha interessato il mito della sirena? Quanto avete guardato al mito nella storia dell'arte? Yeah, I mean the myth of the siren was kind of like a far away like analogy or metaphor for the exhibition. Sì, il mito delle sirene ha costituito per la mostra una metafora importante di riferimento. Noi però volevamo fare una mostra negativa, nel senso che non fosse concentrata sugli oggetti d'arte, ma piuttosto su cosa li definisce, sul linguaggio che definisce gli oggetti, per esempio, o sulla voce originaria di un oggetto persa attraverso il suo uso. Generalmente si pensa che le sirene cantassero delle musiche bellissime, ma credo piuttosto che cantassero una canzone differente a seconda dell'ascoltatore. Anche la seduzione come trappola, un'idea che appartiene al mito delle sirene, ci interessava in rapporto al mondo dell'arte, perché è estremamente presente. Quindi quella delle sirene è una metafora lontana per affrontare soprattutto il problema della comunicazione, della mediazione, del ruolo centrale dei comunicati stampa nel mondo artistico, per esempio. La mostra avviene appunto in tre posti, a Roma, a Parigi e a Londra, e crea diversi fraintendimenti. Siamo insomma più interessati dai fraintendimenti che dalla comunicazione e dalla comprensione. Quanto è importante a questo punto lo spettatore? Sin dagli anni 60 nell'arte contemporanea lo spettatore ha rivestito un ruolo fondamentale, è stato quasi parte dell'opera spesso in molte ricerche. Cos'è per voi? The viewer is extremely important, but like the not in a way that like I want to include the visitor in any kind of of relation. I mean, lo spettatore è fondamentale, ma non perché lo vogliamo racchiudere in una relazione. Le tre mostre lavorano evidentemente sull'idea di separazione. Avvengono nello stesso momento in tre posti differenti e dunque producono l'assenza delle altre due. Ma anche ogni singola mostra evoca l'idea dell'assenza, perché non ci sono molte cose da vedere, se non l'idea dell'assenza. In questo senso il ruolo dello spettatore è fondamentale, perché deve ricostruire le parti mancanti, immaginarle, però si tratta di una relazione non basata sull'inclusione. Quello che cerco di fare in mostra è non mettere in scena delle performance. Per esempio, gli attori non recitano, ma raccontano testi. La scultura non è che un pezzo di legno scolpito prima dell'apertura della mostra. Poi c'è lo scrittore, chiamato il copista, che è una figura centrale. È sempre presente e scrive in diretta la sceneggiatura della mostra. Quindi possiamo dire che l'esposizione non esiste se non per raccontare la propria storia. E continuiamo il nostro viaggio alla scoperta del mito delle sirene. Noi siamo qui con Silvia Ronchey, che saluto. Buongiorno. Buongiorno. Silvia Ronchey è docente di filologia classica all'Università di Siena e dopo aver raccontato l'ultimo stato delle sirene, dunque una sirena contemporanea che l'ascoltatore, il visitatore deve in qualche modo inventare, tornerei invece alla classicità. Ecco, cosa rappresentava nel mito la sirena? Noi le sirene le conosciamo in diversi miti antichi, ma soprattutto dal mito dell'Odissea. Odisseo che per sfuggire al canto, al cosiddetto canto delle sirene, deve, grazie alla Metis che gli suggerisce Atena, la dea della ragione, cioè al suo ingegno astuto, si deve legare all'albero della nave, turare le orecchie e in questo modo si salva, con però l'aiuto di una maga, di Circe, uno dei personaggi più oscuri dell'Odissea, tant'è vero che si sono messe le sirene odissiache, omeriche, in relazione un po' con tutti questi personaggi femminili dell'Odissea, per connotare l'insieme di questi personaggi come personaggi rappresentanti incarnanti una femminilità oscura, quella di Circe, quella delle sirene, un po' tutte, forse con l'eccezione di Nausicaa, in particolare una vera e propria sirena, diciamo con i tratti simili a quelli delle sirene, è rappresentata la ninfa Calipso. Non a caso il suo nome viene dal greco calipto, che significa nascondere. C'è qualche cosa nella maga Circe, nella ninfa Calipso, nelle sirene, una sorta di cospirazione femminile che impedisce al protagonista di tornare al legittimo Talamo e di ritrovare la sposa Penelope. Quindi la sirena innanzitutto come inganno, come fraintendimento. La sirena è un fraintendimento, è un desiderio ingannevole, e quindi la sirena vera e propria del mito altro non è che l'amplificazione e l'incarnazione di ciò che tutte le altre donne, le donne sole in qualche modo, già comunque sono, cioè un desiderio che è fine a se stesso, un desiderio che non costruisce ma decostruisce, che porta alla perdizione. Non a caso la prima metamorfosi del mito della sirena sarà quello nella femme fatale, in qualche modo, no? Si dice ancora oggi una sirena per dire di qualcuno che ha un'attrattiva, di una donna che ha un'attrattiva irresistibile, ma appunto legata a una seduzione fatta di promesse non mantenute, quindi diciamo è proprio lo stereotipo della femme fatale, attingerà moltissimo a quello della sirena anche visivamente, anche in tutta l'arte simbolista e comunque decadente e tardo-ottocentesca. Ma va detto che le sirene di cui parla l'Odissea, le sirene di Odisseo, non sono la sola rappresentazione nel mito. Anzitutto, la sirena noi oggi l'immaginiamo come una donna pesce, ma dobbiamo ricordare che all'inizio era una donna uccello e che il canto delle sirene con ogni probabilità doveva essere percepito nell'immaginario, nella fantasia degli antichi come qualcosa di molto simile a un canto d'uccelli. Ora noi dobbiamo ricordare i famosi versi di Alcmane che diceva: io ho imparato la poesia dal canto degli uccelli, e quindi la sirena è anche incarnazione nel mondo antico della poesia nel suo aspetto, se vogliamo, più sacro, da un lato, ma anche nell'aspetto di sovversione e potenziale devastazione di un mondo, di un ordine costituito che l'arte poetica in sé costituiva. Quindi abbiamo due cose inquietanti: la donna sola, la donna libera, la donna diversa dalla sposa, e tutto l'ambito dell'irrazionalità e del desiderio, che in ogni caso è ingannevole quando non è anch'esso stabilito in un ordine. Lo stesso tipo di seduttività applicata all'arte, alla poesia, probabilmente anche alla musica, perché la poesia e la musica ovviamente nell'antichità non si scindevano, non potevano essere scisse o distinte. Se poi prendiamo in analisi le argonautiche orfiche cosiddette, in cui di nuovo abbiamo una descrizione bellissima tra l'altro delle sirene, ci accorgiamo che l'autore non noto racconta la storia e poi i mitografi più tardi la commentano dicendo: in realtà probabilmente queste sirene altro non erano che le prostitute che aspettavano nei porti i marinai per poi spolparli letteralmente, cioè rubargli il denaro, a volte magari ucciderli o farli uccidere dai loro protettori. E questa immagine infatti delle sirene, dell'isola delle sirene tutta piena di ossa spolpate, di morti, è straordinariamente bella nelle argonautiche orfiche. Quindi abbiamo, se vogliamo, una triplice opinione o comunque una triplice spiegazione degli antichi, in cui il terzo polo, dopo i primi due, è rappresentato proprio dal desiderio ingannevole di qualcuno che però in realtà ti vuole prendere denaro. Ecco. In parte sì, è stata ereditata dalla letteratura, dall'arte, poi in seguito, anche se a prevalere nell'Ottocento, anche inizio Novecento, da un punto di vista del simbolismo, ma anche invece di Matisse, è l'aspetto di bellezza alla quale non si può resistere, non si riesce a resistere, a metà tra l'onirico e la realtà, è comunque una dimensione estetica assoluta quella delle sirene. Sì, una dimensione estetica assoluta, ma diciamo contrariamente ad altre personificazioni di questo, c'è sempre la morte accanto. Ancora oggi una delle varianti del nome che designa la sirena è Gorgone. Ora, oggi la parola Gorgone, il nome Gorgone designa esclusivamente Medusa, cioè un'altra grande icona del decadentismo, eccetera, eccetera, però lì noi sappiamo esattamente chi è Medusa. La sirena quindi ha sempre la morte negli occhi, come appunto direbbe Vernon a proposito di Medusa. Ecco lei che in questo caso non attraverso lo sguardo, non attraverso i tuoi occhi, ma attraverso le tue orecchie, però ti attira in una dimensione altra, e questa dimensione altra può essere appunto la dimensione di smarrimento dell'io attraverso l'eros o queste altre che abbiamo detto, ma comunque ha sempre a che fare con la morte. Un viaggio senza ritorno, ma per arrivare ai tempi più moderni, in quale modalità siamo arrivati da questi aspetti del mito delle sirene Silvia Ronchey fino alla favola di Andersen oppure alla versione disneyana di questa favola, che ci dà comunque una prospettiva sulla sirena abbastanza differente? La fiaba di Andersen, La Sirenetta, che è una storia inquietante di mancata metamorfosi, diciamo così, una storia di morte, mancata metamorfosi. Nel 1989, nel cartone animato di John Musker e Ron Clements, ha divulgato il racconto di Andersen regalando alle nuove generazioni addirittura un happy end. Ha, da un lato, consolidato un'immagine univoca della sirena come donna pesce, quindi ha tolto tutta la parte donna uccello, arpia, gorgone, tra l'altro più fallica, diciamoci la verità, più fallica ancora in qualche modo. E soprattutto ha ribaltato il mito, perché la sirena diventa vittima anziché carnefice. Ha ribaltato la tradizione greca e a questo cupo racconto di metamorfosi mancate, di proibitivo rapporto tra mondi diversi, ha sostituito un patto di felicità basato sulla rinuncia all'identità. Tanto è vero che si era tentati di interpretare questo, insieme ai tanti rovesciamenti e ai tanti smarrimenti, chiamiamoli anche così, del mondo contemporaneo, di interpretare quindi a questo punto la sirena mediatizzata e commercializzata come un'immagine del consumo in se stesso, cioè vedere una sorta di Odisseo legato al carrello dell'ipermercato che cerca in tutti i modi di sfuggire alla tentazione dell'acquisto, del consumo. A parte gli scherzi, è molto significativo questo, perché la mancanza di un'immagine per il desiderio illusorio, la mancanza dell'immagine per di ciò che non si può avere, è molto preoccupante. È la promessa di avere tutto che ci suggerisce il mondo di oggi è molto pericoloso e fa sì che la sirena diventi di nuovo un'immagine monito in qualche modo, ma monito del contrario, ossia monito dell'attenzione. Attenzione, state attenti, ci sono cose che non potete avere. Questo sarebbe davvero importante, anche perché poi questo è il messaggio dell'arte. Grazie, grazie molto Silvia Ronchey. Grazie a voi. One breath away from Mother Oceania, your nimble feet make prints in my sand. You have done good for your Una sonorità liquida questa di Oceania, Björk, un trattamento, pensate, tutto vocale, quello che vi sembra batteria in realtà è l'ugola, un'ugola fenomenale di Razel dei The Roots, e poi naturalmente la voce splendida di Björk per continuare a pensare, ad immaginare le sirene, se poi le volete vedere nell'ultima invenzione nella mostra di cui abbiamo appena parlato, lo stato delle sirene, basta collegarvi al nostro sito internet dove troverete delle immagini, il sito è www.a3.rai.it. Art Parade. per l'Art Parade di questa settimana. Siamo in collegamento da Milano con Andrea Bruciati. Buongiorno. Buongiorno. Andrea Bruciati è direttore della Galleria Comunale di Arte Contemporanea di Monfalcone e ha visto per noi diverse mostre di questa settimana milanese particolarmente effervescente con il Salone del Mobile, ed è forse anche grazie alla prossima mostra alla Galleria di Monfalcone che Andrea Bruciati era interessata all'argomento, Basic Human Impulse, ed è proprio, si aprirà a metà maggio ed è proprio basata sul rapporto tra l'arte e il design. Ne parleremo in futuro. Intanto Andrea Bruciati, ci può raccontare la prima delle mostre che ha scelto per noi? Ma io ho visto questa mostra che è stata organizzata proprio per questa settimana ed è adiacente alla chiesa di Sant'Ambrogio, quindi già una location abbastanza particolare, ed è una mostra proprio sul rapporto fra, su complesso anche il rapporto fra arte e design, e il titolo rimanda appunto alla pubblicazione di Freud, Totem un tabù, ed è una mostra curata da degli architetti, degli storici dell'arte che in qualche modo si interrogano sul rapporto ambiguo, sull'ambivalenza fra oggetto, valore formale, valore simbolico. Secondo me è una mostra che ha dell'interesse, come dicevo prima anche non me l'aspettavo perché ovviamente era un po' fuori dai distretti del design del fuorisalone, ma è stata una piacevole sorpresa. In questa mostra praticamente vengono oggetti di design, soprattutto sedute, ma non solo, vengono accostati a delle opere di artisti invece del sistema dell'arte, anche abbastanza affermati, come Tatiana Trouvé o come Michael Seistorfer, oppure Ettore Sotsas. E io credo che sia in qualche modo una via da indicare, una sorta di prontuario intelligente su come deve essere anche fatta una mostra, cioè una mostra deve anche dare delle riflessioni, degli stimoli, indipendentemente dall'estrema formalizzazione, dalla compiutezza degli assunti teorici con cui viene organizzata. A me piacciono molto le mostre che in qualche modo danno degli spunti, creano delle nuove connessioni, anche di ordine non solo intellettuale o informativo, ma anche emotivo. Eh sì, e poi in particolare il rapporto tra arte e design è particolarmente interessante per comprendere quanto l'arte contemporanea abbia mutuato dal disegno industriale e viceversa. Dove ci porta poi Andrea Bruciati? Ma io andrei su qualcosa di un po' più magari istituzionale, cioè andando alla Triennale, dove c'è questa terza interpretazione del ciclo di mostre di Quali cose siamo, no? Anche in questo modo troviamo un forte valore emotivo legato all'oggetto, e in questo caso il curatore era Mendini, e quindi un designer che però ha degli addentellati fortissimi, gioca continuamente sulla trasversalità dell'oggetto. E quello che mi è piaciuto di questa mostra è stato proprio il fatto che ci fossero come dei panel, come degli archivi aperti all'interno del circuito, dove venivano accostati oggetti legati a chi veniva interpellato, oggetti legati a delle opere d'arte dal forte valore oggettuale, formale. Anche in questo caso, secondo me, diventava importante questo continuo dialogo, questa continua traslitterazione fra forma, simbolo e anche funzione, se vogliamo, sia di ordine estetico che di ordine pratico. E c'è un'altra mostra che vuole raccontare ai nostri ascoltatori, Andrea Bruciati? Ma andando poi nello specifico delle cose più legate alle aziende, ad esempio in via Pontaccio c'era lo spazio Moroso, uno spazio dove l'azienda ha dato piena libertà di espressione a due artisti, Andrea Sala e Francesco Simeti. E che ne hanno fatto? Non hanno realizzato, diciamo, delle stoffe o comunque degli complementi d'arredo, ma hanno reinterpretato lo spazio secondo Moroso e quindi hanno sintetizzato architettura e design con creatività artistica. Secondo me è stata una sorta di site specific estremamente coraggiosa da parte dell'azienda, estremamente intrigante per chi ha partecipato, insomma, già dall'inaugurazione. Ecco, Andrea Bruciati, dopo questo tour all'insegna del design, qual è la conclusione? Che impressione si è fatto proprio di questo rapporto così stretto e così complesso? Ne sono molto affascinato come direttore dalla grande partecipazione di pubblico, sinceramente. Questa settimana muove tantissime energie, tantissime persone che potenzialmente potrebbero essere anche interessate all'arte, alla creatività tout court, ma che purtroppo ancora, almeno in Italia, noi primi responsabili di gestione degli spazi non siamo ancora riusciti a cogliere. Quindi c'è stata una grande, se vogliamo, positiva invidia nei confronti di questo settore, perché veramente riesce ad attrarre, ma anche in maniera molto interessata, un pubblico molto vasto, e secondo me e questa è la grande sfida anche per l'arte contemporanea in generale. Grazie, grazie Andrea Bruciati. Grazie a voi. Nonsense. Campania così bella che è vera, diceva uno slogan che certamente molti di voi ricorderanno, uno slogan in uno spot pubblicitario davvero suggestivo, con delle immagini bellissime, autoriale tra l'altro, perché è stato girato dal regista spagnolo Eugenio Requenco, e con uno spot che voleva rovesciare i luoghi comuni su questa regione per creare anche delle atmosfere molto misteriose, raffinate, e così si è scelto di girare in luoghi non troppo conosciuti come Palazzo Donnana di Posillipo, poi la bottega di un barbiere, il mercato del pesce, poi un'impressionante cisterna che non è altro che la celebre piscina Mirabilis di Bacoli, che tra l'altro è la più intatta cisterna romana ancora esistente. Allora, la protagonista camminava dentro questa cisterna in abito da sera, ed è stata una delle poche fortunate, perché anche il giornale dell'arte ci informa che è difficilissimo visitare questo monumento. Chi volesse visitare la piscina Mirabilis si deve affidare veramente alla buona sorte, al fatto di trovare o meno la nipote della signora che per anni ha custodito la piscina Mirabilis. Oggi la signora è anziana, soffre di reumatismi, ed ecco che il compito tocca alla nipote. Qualche volta lei è in casa, altre volte no, e allora addio visita. Non la si può però troppo biasimare, perché pensate che lo stipendio per tenere in vita questa meraviglia, come questa cisterna che ha degli archi altissimi, 15 metri disposti su quattro file, ecco, lo stipendio è di 460 euro lordi l'anno. Ecco, questo è un meccanismo perverso che avviene in molti altri monumenti di questa campagna così bella, dove può succedere che il Museo del Castello di Baia, che conserva delle sculture straordinarie, è stato tra l'altro perfettamente ristrutturato, sia chiuso per mancanza di custodi dal 2008. Tanto per passare dall'antico al contemporaneo, la stessa sorte è toccata all'auditorium di Ravello, l'edificio meraviglioso progettato dall'architetto brasiliano Oscar Niemeyer, un maestro indiscusso che infatti ha realizzato un gioiello impacchettato, inaugurato e immediatamente reso, dichiarato inagibile per oscure polemiche tra la regione e il comune. Ecco, una chiusura immediata da Guinness dei primati, che però rispecchia una situazione di beni culturali in Campania e non solo. Noi aspettiamo i vostri commenti, le vostre richieste all'indirizzo a3@rai.it, oppure sulla nostra visitatissima pagina di Facebook. Basta cercare nel motore di ricerca di Facebook a3Radio per comunicare con noi fino a domenica prossima. Adesso i nostri saluti di Cettina Flaccavento, che è in regia alla cura di A3, di Carlo Fabiani alla console e di Elena Del Drago al microfono. Grazie.